Lugariello, ci sei? Hai un lampa di tutto, ho già bippi, lampa di tutto. Ciao già, buongiorno. Non siete Gianni da Porto Torres, Natalia? A Gianni da Porto Torres. Sì, vabbè, lasciali. Ascolta Natalia, ho trovato il manuale, se ti può interessare, con le bande dell'MFG 945. Quello lì c'hai tu. C'ho tutto, c'ho la scatola, c'ho tutto. E mi scatola è praticamente. Quindi c'hai anche il manuale? Certo che ce l'ho. Se c'ho la scatola, l'ho comprato nuovo quello, 218 euro l'avevo pagato, più le spese. Sì, sì, sì. No, ieri mettendo a posto ho trovato il manuale dell'MFG, non me l'ho fatto. Se serve a qualcuno, perché lì ci sono le bande, capito? A, B, C, cosa dove sono praticamente? 40 metri, 20 metri, 10 metri. Va bene Gianni Dischetto, non ha portato tutto, io. Ci sentiamo dopo, se devo fare cosa. Ma 7 cm orientativamente da dove c'è l'aggancio. Dall'aggancio all'aggancio 7 cm già. Ti interessa a me? Se la si piazzano i due, chi la si viene a me? Figurati, l'ho piazzata io quella. L'avevamo comprata assieme con l'antenna. Tu vai l'antenna di Gallo Titano, io vado alla radio e parlo di Gallo Titano. Sì, R31. Sì, ricevitore radio. E anche quello l'avevo fatto comprare io. Sì, c'ho un portatile io di Carlo, di Giampaolo, lo stesso c'ho il portatile, il 140, e tutta roba di amici io, che ho preso per ricordo. Ricevitore non ce l'hai per me, no, no Natalia, non è un giorno ricevitore, io lo sai. Se ce l'avevi qualche ricevitore, stavo dicendo. Sì, avevo l'ICR 7000, ma l'ho dato a Roberto, quello della ICOM, ce l'ha Roberto Quadratto. Quello te l'avevo dato io. Preparati, e intanto non ci parlano qua, quindi di Paolo Torres, il modo non ci entra nel canale 10, parlerete nel canale 12. Ma Antonello Garageni? Ah, io ho capito. Ehi, ma non ci parlate nel canale 10. Tranquillo, vi fate la ruota nel canale 12 ed è giusto così. Noi anche a Sassari siamo una parte nel 10 e una parte nel 23. Oh, che vuoi entrare, un canale libero a tutti. Non c'è nessun problema, però come noi non parliamo nel 12, loro non vengono nel 10, capito? Anche perché non è che io sia in buoni rapporti con Gianluca, quindi si mi tocca indietro. Sì, sì, sì. No, ma è questione personale, non questione del radio. Niente di che. Cose nostre vecchie. Comunque, vedi tu, noi siamo in obbligato di Biase, già entra, se no te li tagli un Eddie, non è problema. L'importante è che piazzi quello che devi piazzare. Poi gli altri io non li conosco neanche. Buona, buona, ottima. Va bene, farne più 3B va sempre bene. Va sempre bene già. Ottimo microfono. Poi con quella radio lì andava bene. Non è l'antenna piazzata, basta. E vabbè, Santiago 8 sta arrivando comunque, già va bene, a Radio 5. Sì, sì, sì, tra l'8 e il 9 già va bene. Ehi, lasciala così la radio già, che va bene. Però prima di chiudere tutto controlla, perché può essere poco più di 7, meno di 7, capito? 7 è orientativo mi già. E allora se l'ha messo a penna vuol dire che a 7 andava bene. Regola la 7 e provala. E poi dovrei alzare il segni tutto. Ma non ti fidare, ti conviene mettere. E a quanto ce l'hai? A 5. No, la misura quanto è a 5, la spirale adesso, che ti sta misurando un 5. Controlla già. Controlla. Metti la 7 e guarda se le stazionarie sono scese. Se non sono scese, che sono salite, riabbassa appena appena. E io già, ci sentiamo più tardi. Natali, ci sentiamo più tardi, ok? Sì, ciao. Vedi che devo fare un po' di commissioni, se no mi metto il gucco, già. Ciao, ciao, ciao. E beh, con cuore. Ciao Lugarie. Che ragazza. E c'è Claudio, c'era. Ma sta andando a fare delle commissioni. Luca, come sto uscendo di radio, gli ho messo il cotone e gli ho tolto quell'affare di ferro che c'era attaccato alla capsula. Carie, attento Lucariello. Attento Lucariello. Lucariello, che fine hai fatto? Capagara. Lucarie. Lucarie, ma Lucarie, vuoi rispondere sì o no? Ma è vero sì. Luca, ma vuoi che ti faccia squillare il telefono? Cosa vuoi che ti faccia squillare il telefono? Bello bene. Ascolta Natali, dammi un controllo di radio, dimmi se va bene. Benissimo, chiara chiara. Bella, bella forte, chiara chiara. Va bene, va bene. Sto provando sti cazzo di microfoni. Luca entra e fuggi. Una dirighetta mi pare, anda nel torrente. Non c'è che tu usci, anda e torra. Tu prendi il boccio d'orra, anda e torra. E allora, è il momento che tu dici usci, chi anda a brinchi. Infatti, chi tu dici usci, chi anda a brinchi. Quindi la radio va bene, Natali, dai. Sì, va benissimo, non bene. Ok, dai, adesso lo chiudo sto microfono, che questo non funzionava. Non puoi cantare la giacconza. Sì, ma mi si inchiodano le alimentazioni della batteria. E sono tutti senza batteria dentro l'armadio. Anche il mio è andato in avaria, ce l'avevo un anno fermo in campagna e non funzionava più. Che rottura di balle, vabbè, io non già questi microfoni, non posso attaccare tutti i baracchini, Dorra e mi attaccare tutti i microfoni, cazzo mi ero tutti per questione di spazio, aggiustare Dorra con questi baracchini. Purtroppo quando li lasci fermi succedono queste cose. Io avevo quel microfono da tavolo fermo un anno in campagna, senza batteria, senza nulla, perché io le tolgo sempre, no, per non ossidarci e cose. Nuda, non funzionava più. E così ho fatto questo. Adesso le ho rifatto le saldature nuove e gli ho messo l'attacco della batteria nuova. Se avessi si fa il fumo. E adesso non penso, là. C'è tutta la roba nuova. E vabbè, ma c'è anche l'altro, no, e non funziona. Questo è il Turner. Vedo che il picchio c'è. Scatta questo, mi va di pure impressione, che chiccio e non succede nulla. Dopo un poco va di pacche e sale la lancetta. C'ha un ritardo nella trasmissione, però è così lui. E così la radio allora, o il microfono? No, la radio. Io quando vedo la lancetta che sale allora parlo, se no se parlo prima non esco di radio. Ah ecco, no, va bene allora, a futti di. Già, l'importante è che funzioni anche di poi. Ma, te. Adesso ho detto ma, sentito l'hai, che l'ho fatto prima di che si alzava la lancetta. Io adesso me ne accorgo quando è in trasmissione, perché si alza la lancetta, no? Allora Busu va bidà. Però c'ha un secondo di ritardo, ma è così lungo l'apparecchio. Sicuramente sarà l'apparecchio così. Infatti mi aveva avvertito Marcolino che era così, che prima di parlare dovevo aspettare un secondino. Già va bene, dai. Che palle, ragazzi. Allora, avevo un vento oggi allucinante, proprio, ma allucinante, peggio di quello di ieri, cazzo, vento di terra, ma rottura di balle. Io sono uscito poco fa a portare il cane. Lo so, cosa vuoi fare? Vabbè, ma è fastidioso, però. È un bel fastidioso. Vabbè, vediamo, si passa, si abbassa un po'. E così è sempre, sempre buona la radio, no? Va bene. Eia. Eia, eia. Lasciamo stare così, allora. Qua c'è il Mickey Ginny al massimo. inserirlo appena appena, così vediamo se cambia qualcosa. 1, 2, 3, 4, 5. No, non ha cambiato niente, lasciamo stare così, dai. Sì, andava bene, la carità. Sì, sì, non tocco niente, già va bene così. C'è così, è leggermente anche, va anche meglio. Così va anche meglio, dai, lasciamo stare così allora. Apagava. Tanto non cambia niente. Va bene, va bene, KK. Adesso se avessi avuto un ricevitore, mi sarei messo ad ascoltare da altre parti invece che stare qua. Cioè, l'avrei lasciato acceso, questo si entrava a contra e si può aver accusato un'altra cosa. Natali, già ce n'è ricevitori belli, però la figura non fa quelli di là. Lo so. Io non ho neanche entrato mai di ricevitori, se no te l'avrei dato volentieri a usarlo, guarda. Giusto per usarlo, però non ne ho. Non ha giù nuda, manco uno. Già me lo buscherò uno, là. Non delle bande alte, perché quelle non mi interessano, che poi non si sente nulla, sentono solo qualche volta le date mature, qualche volta. Sì, vabbè, già ce n'è traffico, non ce n'è problema. Io me ne faccio in quel Rix, dai, ci sentiamo più tardi forse. Ehi, Natali, io sono qua, sto facendo una cosa, a dopo. Ciao, ciao. Città di un garraggio. No, non è che sei troppo forte tu, stai parlando fuoco è più forte di Sassari, quindi sia ricezione che trasmissione. Ho capito. La mia ricezione non è uguale agli altri. Io lo so che sta da Fruscia, gli ho detto, se è più forte che se esuri è tutto d'oro. Se non lo comprendi, Edo. E ora la ringa di secca. Va bene come ho abbinato questa radio. Il segnale c'è, buono, eh? La radio buona? Sì, a buia. Segnale 9, la radio è 5 pulita. Adesso ti faccio un passaggio, non si aumenta da questo, eh. Questo hai detto che è 9, vediamo se aumenta appena appena. Guarda, questo è l'altro passaggio, aumentato è appena. Sì, ma leggermente, leggermente. Di poco? Sì, da 9 a 9 e 1. Cazzo, manca 9 e 5 arrivo. No. E io radio, va bene, dai. La lasciamo così allora, tanto se non aumenta nulla, cosa? Da 10 a 15, cioè da 10 a 20 non aumenta nulla, vabbè, lasciamolo così. Capo, cosa hai messo? Ho no, linea letto dentro la radio, cioè quello da 30 a 30 watt, dai. E va bene, la D a 4, avanti la D 30, quindi già va bene. Va bene, va bene, alla grande. E il segnale che stai arrivando tu arrivo io a te, dai, già va bene. Quando lo metti, se no arrivi anche a 9.10 tu. E sta attento anche a Giammoglio, dormi con questo vento, non ti si buccia. Chi è questa portante? Chi è questa portante? Buongiorno, buongiorno G. Hai visto che vento che c'è, eh? Ma già lo so, Alghero c'è un sacco di vento, anche perché arriva ad Alghero questo vento, quindi figurati, io lo prendo in pieno. Non posso tenere il poggiolo aperto, che sporca miseria. Vai Lugano e Trento, lui la mattina è abituato a stare fuori, è un casino. Aspetta, sta parlando Angelino. Tu rompi palle di pitbull, cos'è che fai, cazzo? Che non capivo niente, che arrivi quanto Angelino, cazzo, ma di sì. Santiago stai arrivando, la mazza te ne varia. Che vento è, libeccio, sciroppo. Vento di mezzogiorno, così chiamato, ma è libeccio, no? Comanda, libeccio è. Sono gente, è forte, no? Che dove abito io, libeccio, lo prendo in pieno d'Alghero. Una goccia allucinante. È più forte del maestrale, qua. Tu immagina, da me libeccio mi ha fatto un danno allucinante alle antenne, alle direttive. Proprio libeccio. E infatti è più forte di quello di ieri. Ieri era un po' più debole. Oggi il picco è intorno ai 35-40. Vabbè. KK, avanti Fra, lo senti Angelino? No, non lo sento. Niente, no, sto saldando. Continua. Vediamo che quello che si ascolta. Non ti sente Angelino? Perché sta saldando, magari sta muovendo, c'è un volume basso, va bene, aspetta un secondo. Vabbè, Angeli. Che bagaba, è un casino, La bomboletta nera o bianca? È vero. Sicuramente, dai. È in furgone al porto, Angeli. sa se il porto c'è. A Porto Torres è. E ce l'ho avanti, invece in posizione favorevole per me. Tanto non mi arriva nulla, è paccato. È sempre a Modri. Sì, sì, 9, quanto è lui, sì? Santiago 9. Mi si è parlati assieme, non capisco un cacchio. Se a volte mi arrivi 9-10. Capito? Evidentemente sei staccato, boh, stai usando poca potenza, non so. Direttamente. Allora, evidentemente. Ma io già passo QRM, sì. Sei la matta di Nevaria, sei sul più del 3 qua col baracchino. Sei un po' buono, ma non è quello. È vero. Ehi, anche tu passi bene, dai. Solo che è un casino, quando si apre la propagazione è veramente un casino, eh. Stavano per radio da stranieri. Stranieri? Ma non intendi tu gente della pura? Stai parlando in due, chi c'è assieme? Natali, tu sei? No, sono io. Ma infatti Natali è 9:20, chi è che sta parlando assieme a Angelino? Cazzo blu. Io, non mi senti? Ah, madonna, cazzo blu. Io già ti sento, sì. Ma non comprendo né a te né a Edo. Siete tutti e due romanti siciliani. Lineari non naggio io. No, ma sono proprio vedendo i corinari. Sono proprio vedendo che avete romanti siciliani. Ah, ho capito lineari. No, no. Stai usando il C80, sì. Anche più alto di lui, 695. Ah, ma mi rivendo tutti, mi. 4,30, 4,40 e 140. Mi, tanto il baracchino qua. Esce uguale che si mangi, esce oramai. Decidi di cosa vuoi fare. Io voglio prendere la merce di 4,40. Alla fine che cado prima da me, vero Cla? Prima sempre Luca. No, 4,40 è mio. 4,40 è di Luca, però 140 non lo so perché è di Giampaolo. È di Giampaolo Silvestro, quindi non si può dare. Quello rimane qua. Ma vero gioco, mamma mi rivendo. Ma ne tengo una sola, tanto qua, sto sempre col baracchino, oramai l'ho settato bene. Mi sa che forse pure a tutti che il radio, ma ne tengo due e buh. E vedete un pezzo di campagna lì. No, non c'è problema, già va bene. E la finisce la campagna del vicino. Ehi, non sta cantando, un po' di gara. Ci sono tutte, non ti bastano 5.000 euro. 5.000 euro te ne posso dare 2,5 di quelle che ho io, con 5.000 euro. Ce ne vogliono un bel di più per comprare tutto. Parecchi di più. No, beh, per i 4,40 bastano 350 euro, si è a posto. Cosa avrà? Ah, io Cla, ti do la campagna di Natale 2,440, io farò affare. Va bene, c'è Natale d'accordo. Tu è la mia, la Giulia. Cla, non lascia perdere, a me che non hanno soldi, cosa vuoi recuperà? E un viaggio di là, Giulia, non ti trovo là. Ma io no. Viaggio, viaggio, tranquillo che viaggio. Ma Claudio, alla fine è il mio padrino, va. Tornaggio, assai, di là, voglio avviso. A rate vendi a rate. No, Claudio, di chi si pochi, ma vedete subito, vero Cla? Pappagappa, buongiorno. Ehi, a qualcuno gli ho dato anche a pagarmelo poco a poco. A qualcuno gli ho anche regalato. A qualcuno che l'ha prestato e ce l'ha venduto. Col voucher, vende col voucher. Ah, io non farei mai un gesto del genere, se mi prestano una cosa, mai mi vengono una cosa e gli lasci. No, un gesto brutto, brutto, brutto. Come se la cosa me la aperto e la restituisco, come ho sempre fatto. Angeli, è pure successo. Un amico, che poi vabbè, siamo stati un po' senza parlarci proprio per queste cose, poi l'ho perdonato. È stato un errore, si può sbagliare, pazienza, va bene lo stesso, non c'è problema. Però io di radio ne ho dato a persone che fidate, le ho date anche ad usarla e quando c'è i soldi pagamela. Ed è sempre andato bene. bisogna avere fiducia, bisogna avere sempre fiducia nelle persone. Dimmi che questo, no, questo non è l'MC 60. Guarda, la compri la fontana di Rosella. E nemmeno la mongo un'altra lì, non è che biattare qua con la fontana di Rosetto. Sì, sì, sì, beh, io quando do le radio chiedo sempre, voi il microfono normale, cioè a parte il microfono normale, perché c'è qualcuno che vende le radio senza microfono, a parte il microfono normale, vuoi anche il microfono preamplificato? E io ti metto in condizione di prenderti anche il microfono preamplificato. E no, sto parlando al soprattetto. Va bene, fammelo squillo quando sei sotto. Oia. A noi, e beh, ma tu giù, sembra di andare in vento, invece a mano. Così è. A chi interessa, perché faccio un crocco da vendere, di quelli antichi. Se c'è qualcuno interessato, me lo dica subito, se no lo porto da Marcello. Lo sanno cos'è un crocco, non si hanno mai scusato, lo bravo da minori. A Natalia lo serve, mi fa, Natalia te serve un crocco. Vintage. Vintage, e poi cosa no? Che tu vieni fino a lì, e ringrazi di Natalia Meccio, e gli hanno fondato domani la Ianna così già. Sì, all'asino che era un crocco vintage, ne ero bussato. Una fortezza era, un crocco era una fortezza, Ce l'avevo sì da poco tempo fa, io, poi l'ho portato all'ecocentro, allo stoccaggio di Roberto Miccio, perché quando avevo fatto i lavori in falegnameria mi era capitato fra le mani e allora ci ho buttato questa quella roba, naturalmente. E fra questi c'era anche un glocco. Ah, Claudio, allora guarda che si racconta un gabbo allo glocco, io bazzia l'altalena, la bici minore bazzia l'altalena, bazzio. Ci non hai mai scritto un gabbo e dello glocco, no? Ogni aruni, ogni lunedì, ogni santo lunedì, Mastro Lelle, che era il capocantiere quando io lavoravo con Benassi, il geometra, ero proprio l'assistente del geometra di Ida, che è ancora, sì, è ancora vivo perché ci siamo visti al Porto Torres da poco. E lui, guarda, quanti siamo oggi? 1, 2, 3, Alberto si ha cotto il gabbaro grocco, Giovanni si ha cotto il gabbaro grocco e Antonio si ha cotto il gabbaro grocco. Dunia Luna era amata si cosa, sempre un grocco quello in mezzo. Questa è l'effetto della Serviaca, la di prima, della domenica. La Serviaca è che gli passa questo difetto. Immaginati, mamma ce l'aveva, o Giulio, ma ce l'aveva, usavano quei portoni grandi, no? Poi l'ha messo più basso, nuovo, insomma, sempre lì dove abita. E già vi erano grocco, vera Dunia, con quelle serrature passanti, e la notte mamma, a me sta dicendo, rientra a pulire il grocco. E io ogni notte mettevo questo gatto di grocco. Qui il grocco vintage ce l'ho nel portone, chi è che ce lo compra? Sì, anche mamma ce l'aveva, a portone se c'erano quei portoni lì antichi. E infatti ogni volta Mastro Beppino Coscio, che poi era parente di mamma, era falegname, ogni 2 o 3 anni glielo faceva perché la salsedine lo rovinava, capito? E quindi glielo faceva sempre. Alla fine poi si è stufata, mamma ha chiamato il muratore, ha abbassato perché era molto più alto, ha abbassato e ha messo il portone nuovo, però si usavano molto lì nel centro storico a Portoresi quei portoni grocco. E nei grandissimi portoni vedano l'ubichedo fa cerniera. Allora, sapete cos'è l'ubichedo? Immaginatevi quei portoni grandissimi, tipo che so io, tipo provincia, tanto per fare un esempio, oltre allo grocco, che è quello del gancio, vabbè. L'ubichedo cosa so? L'ubichedo non sono i cernieri mani, d'inverno. Le cernieri, sì. Soprattutto questo che pone in terra, no? Ci sono quei portoni grandissimi e siccome sono talmente pesanti allora si metteva una cerniera anche per terra, no? Murata al pavimento e lì snodava il portone e si chiama l'ubichedo. E mamma me lo diceva, mamma il portonese in chiave. Lo conosco per quello, il biglietto. Allora, io vorrei vedere un manavo di cantiere avvisanti. Allucinante, vedi quanto pesava quel portone. Che pesava un portone di quella grandezza, tu immaginati il portone della provincia o del comune, tanto per fare un esempio, portone così grande pesa qualche quintale, pesa, non è popolo, non ce la fai a prenderlo da solo. A parte il fatto che è grande, deve avere un'apertura di braccia straordinaria, per cui non è tanto semplice. Poi erano portoni alti 4 metri 4 metri 50, bisogna buttare l'acqua, potevi entrare in quel portone col candeliere quasi. 3 metri era quello di mamma, 3 metri e 2 ante, vattelo pronto, era 3 metri e 2 ante, 3 metri, io entravo con la morta dentro, figurati, quando l'aprivo tutto, toglievo, l'aprivo e entravo con la morta dentro, già avevo il, perché c'era un gradino, avevo fatto falegname, avevo fatto l'ugosio d'aurone, no, alzare, entravo con la morta. Era 2 ante, 3 metri, forse per 1,50, se non fosse di più, non mi ricordo. Comunque era un bel grande e pesante, quando l'hanno tolto erano in 3 o 4 quando l'hanno bucato su buttare. Ciao Eugenio, stammi bene, sì, in effetti è così, e più, se era 3 metri alto era anche più di 1,50 m, sarà stato al minimo 2 metri, qua. Se no non ci sarebbe proporzione, non ci sarebbe. Vabbè, prima avevano la mania della grandezza. No, ma quello che mi chiedevo io, me lo sono chiesto tantissime volte, ma questi artigiani di allora, perché erano tutti lavori eseguiti dagli artigiani, senza l'attrezzatura moderna di oggi con macchinari eccetera eccetera, si lavorava quasi esclusivamente tutto a mano, all'infuori di qualche pialla che c'era, così qualche sega a nastro, però poi tutte le lavorazioni, sai, tutte quelle intarsiature che si facevano eccetera, sembravano che lo facessero apposta per complicarsi la vita, facevano dei lavori mastodontici tipo i portoni, ma che domani non lo puoi fare a metà che buttare, che spendi di meno e allo stesso tempo ti sacrifichi la vita di meno anche, incredibile qua. Ma sai cos'è? Lì quel portone è nato proprio in quella casa, perché c'era l'officina di Babbo, quindi Babbo entrava lì dal portone e poi dall'altra parte c'erano quelle porte a vetrata che scorrevoli, capito, che si usavano un tempo per le officine con i vetri, capito, e quando poi ha chiuso, no? E il portone ci è rimasto, e mamma l'ha cambiato dopo tanti anni, ma era una cosa spettacolare su buttare, ma era maduro. Ed era costumi così, un portone del genere, capita, mamma mia, e infatti ce ne sono tanti, sapete quanto ne ho ristrutturati io, incominciando ad esempio dal portone del Banco di Napoli, in Piazza Italia, o il portone di Costa in via Sant'Agostino, o il portone delle poste centrali di Sassari, via Brigata Sassari, e quanti lavori pesantissimi, poi da solo non ce la potevi fare, avevi sempre necessità di un'altra persona, minimo altre 2 persone, perché solo per abbassarlo col portone non ce la facevi nemmeno in 2, ci volevano minimo 3 anche 4 persone per poterlo trasportare e metterlo sul mezzo per trasportarlo poi in bottega. Era impressionante, un lavoro omicidiale qua. Viale San Francesco, dove c'è la casa mio cognato e i suoi uffici, no? C'è quel portone lì, Viale San Francesco 41, perché è un palazzo storico, capito? Proprio lì dove c'è la discesa della chiesa, no? I gradini della chiesa, dalla parte di Viale San Francesco, però non a Viale Caprera. E il portone è uguale a quello, preciso identico a quello che aveva mamma. Stessa corporatura, e in Chivibù numero Grocco, perché io vado a ritirare la posta e c'è lo stesso portone, ma non è che non è pesante. caspita, pesantissimo, non solo deve essere pesante a trasportarlo quando lo deve riparare eccetera, ma anche a spingerlo, sente la pesantezza del portone, si sente proprio un portone, poi uno spessore straordinario, spessori di anche 12-15 cm di spessore, in certi portoni anche di più di 15, se che ti puoi immaginare, sono portoni che pesano quintali. E tutto si faceva a mano una volta, a piallare a mano, a tagliare a mano, a incastrare a mano, a fare le mortaise a mano, i tenoni a mano, tutto a mano, le sagome a mano, i profili, tutto a mano, boh boh. Macchinari, che si operano i macchinari prima per travagliarla questa cosa, è logico che era vaziana a mano giù. E appunto, ma io ho visto un reggio di tanzura che si complicava nella vita, ma che aveva bisogno di buttare il valuato a 4 metri, 4 metri e 50, quando magari lo puoi fare 2 metri e 50. Ma è chiamato più poco travaglio, mentre considerato che non si vede a mano, no? Che se lo voglio dire, oh Natalia, hai già preso un'idea? Oh, ma prima li vaziani manni, che si buciari così. Da me c'è il crocco mi, nel portone qua. Ancora il crocco. A me mi raccontava babbo Natalia, dirgli, un falegname, per dire, lo so, tanto per fare un esempio, faceva un comò, intanto può fare un comò per buoni a 6 mesi, per buoni. Dopo che era finito questo comò, prendevano e tutti quanti gli operai della ditta andavano a trasportarlo a casa del cliente. E ti devo dire questo, con carretto a mano, i ragazzi che tiravano il carretto e i falegnami, tutti quanti in grande tenuta, con tanto di cravatta, eccetera. Si può immaginare che razza di sistema di lavoro che c'era allora, o Natali. Andavano in cravatta a consegnare un cantarano che magari ho fatto io e andavano insieme i 7 operai della stessa ditta per consegnarlo, cose dell'altro mondo. E anche babbo alle 6 del mattino, babbo doveva andare a entravano alle 6, no? Giacca e cravatta, elegantissimi tutti quanti. E poi dentro erano i spogliatoi, si spogliavano e si mettevano la roba per lavorare. Però ti scia da casa in giacca e cravatta, mamma. Ah no, vedono il vaso d'accia, che travagliavano con la cravatta, proprio davanti al banco lavorando con la cravatta, cose assurde, ma quando mai non si sentivano legati con questi affari lì ad accudo, mi dà fastidio a me, quando sono vestito elegante a mettere la cravatta, figurati quando uno sta lavorando, ma dai, poi con tutte le polveri che ci sono in una falegnameria, eccetera. Vai Claudio! Vabbè, già ce n'erano di quelle persone che usavano queste cose, però falegnameria proprio, andare a travagliare in cravatta. No, Marco Beppino Mucci, lì a Porto Torrese, era sempre in grembiule, sempre che, e come te Natalino, tu lo conosci a Natalino, non tu non Natalino, Natalino il falegname o Marco Giù, che un sacco di volte mi ha detto di salutarti. E due, sempre in grembiule. Sì, Natalino Pintore, sì, e a voi se lo conosco. Altro che, e ogni tanto ci passo a fargli visita così, quando sto facendo qualche giretto. Allora mi vado anche da lui. E la prima cosa che fa, sì, io andiamo a prenderci un qualcosa da bere. E domani subito. Il primo contatto qual è? Subito a quella specie di ciclo che c'è davanti in via Catalucchino. È sempre il vinello, lui prende il vinello. Magari io prendo un caffè e lui prende il vinello. Vabbè, ognuno ha i suoi vizi e il suo modo di vivere, perché no? Però è una bravissima persona, Il Natalino è una bravissima persona, veramente. Che è grande, io penso che oggi Natalino avrà all'incirca 85 anni, ancora oggi sta lavorando, sempre col camice lui. Sì, sì, c'ha 85 anni fatti. E io ci vado spesso a trovare il carrozziere lì, a Salvatore Marras, e ogni tanto lo vedo. Infatti qualche volta prendiamo qua, io vabbè prendo il caffè o magari una birretta, indo sempre in biglia, beve il vino, beve sempre il vino, bianco o rosso. 85 anni c'è Natalino. E se lo vedi vende i cassapanche, i buoni rimane in capo. Ne ha due in vetrina da vendere, fatte da lui, ma sai quanto è bravo giù. È veramente molto bravo. E poi è una persona seria, è una persona brava. Io ci vado molto d'accordo. Sì, è una persona in gamba, no, non ci sono dubbi, è una bravissima persona, Natalino. È tantissimi anni che lui sta facendo cassapanche, scrive arte sarda. E sono più di 50 anni, di più di 50 anni che sta facendo. Tu pensa che io, prima di iniziare a lavorare per conto proprio, mentre stavo aspettando che mi arrivassero le macchine, e che ci hanno impiegato 3 mesi, ci hanno impiegato, io ho lavorato da lui, ma non per conto suo, per conto mio ho lavorato da lui, perché allora lui aveva 2 magazzini, quello, poi c'è il portone e c'è l'altro magazzino, e ce ne aveva tutti e due, lui questi magazzini, uno di questi l'aveva affittato a me, e l'ho tenuto 3 mesi, il tempo necessario che ci è voluto per arrivare le macchine di falegnameria, non è come oggi vai e le compri quando vuoi, ma prima ci voleva un sacco di tempo, perché magari le costruivo, allora che ne so, non lo so per quale motivo. E dunque sono stato 3 mesi lì perché io avevo del lavoro da fare e non sapevo dove farlo. Ho chiesto a lui se mi dava il magazzino e così è stato. Lo pagavo tutti i mesi, l'affitto le pagavo, mi ricordo. Allora le davo 30.000 lire al mese, ma io sono come vedendo 50-50 anni fa mio, o Claudio, grosso modo 55-56 anni fa, non ieri, no, tanto per darti un'idea. 30.000 lire sono tante. No, lui c'ha sempre quello. A fianco, dopo il suo portone, dove appunto stai dicendo tu, lì ha affittato c'è un negozio di pasta fresca. Sta bene mia Natalina, non ha bisogno di ritravagliarmi. Però a me mi dice, ma cosa vuoi tutta lì, cosa faccio? Sto qua in bottega, mi faccio le mie cosette. Qualche volta me le ordinano anche, ne ho venduto tante. Accumulo la visione, mi ha detto, capito? Però c'è anche l'altro pezzo, l'altra che ha affittato, hanno inaugurato da poco un negozio di pasta fresca, capito? Quindi già tanti, beh, non ha bisogno di stare ancora travagliando, però lo fa per hobby, come hai fatto tu gli ultimi anni, capito? Come hai fatto tu gli ultimi anni, nonostante eri già pensionato, stavi in bottega per farti le cose tue e per fare qualche lavoretto che ti usciva. Ci fa di Edo, capito? Avanti Natalini. Sì, non sai più come far passare il tempo, è per quello che fanno così, se no non è che ha bisogno di lavorare, no? Anche Giulia faceva così. Si conferma, e si conferma, no, ma lui è proprio attaccato, è come Giulio. Giulio ha mollato perché basta, ha detto basta, non vi riesci. Me l'ha detto a me da poco, mi ha detto, lo già voti, quando non so che non che fai la mia, lo già voti, mi tocca a rubare, mi tocca a casa, lo già voti. Buongiorno! Più il tempo, fallo entrare. Beh, Luciano Gattramina, andici andendi. Sì, buongiorno, buongiorno, no, di rientro, andiamo a prendere l'altro e poi torniamo indietro. Lì, poco fa ho crociato l'originale per ricambio saluti, Gatta Rogero. Ma state asfaltando da qualche parte, Luciano? Sì, Oschi, qua. Ah, è lì nella quattro corsie per Alghero, nella camionale, voi ci siete? No, quelli sono gialli, non lo so, però mi pare che sono fermi, dovrebbero cominciare la prossima settimana. Va bene, va bene. Qui siete a sua tenda Uschi, va bene. Avanti Giulio per Luciano Gattramina. Ciao Luciano, Giulio da questa parte. Non c'è da volare, voi giocate lo base bar, ma chi te lo fa fare? Non lo so io, vattene a passeggio e lascia stare la macchina, mettila in garage, non se ne parla più. Vai Luciano. Ehi, buongiorno Giulio, buongiorno. Io vorrei, ma ancora non si può, ancora dobbiamo travagliare a pagarsi a netto, dai. Purtroppo le leggi sono quelle, e sono casino, se no io ce l'abbiamo mandata a far culo a Viro. E già non credo già. E vabbè, dai, già arriva anche quel momento, Lucia. Già non credo. Vabbè, io non ho fatto solo 62 anni di travaglio, ma non la sai, no? Capita, cosa dovevi sia, 62. 62 e basta, tutto lì. Non è così importante dirlo, però farlo sì. 62 anni di sacrificio, da boh, boh. E sono passate così, come il vento, come passa il vento e sono passati gli anni. Oggi manciapo, è sbandato, nel senso che mi hanno costretto a casa a chiudere la falegnameria e mi dice basta, ma cosa vuoi fare? Vuoi stare tutta la vita attaccato al banco? Dagli, chiudi, vai. E allora ho fatto così, e il locale l'ho trasformato in ufficio per mia figlia, tutto lì Lucia. Ci arriva anche quel giorno anche per te, non ti preoccupare. Come arriva? Vai Lucia. C'è Dio fuori, dai, c'è Dio fuori, sia Misani, ti aiuto. Vabbè, certamente che 60 anni sono un bel di travaglio. Comunque, l'importante è essere sani, dai, poi si arriva a tutto. E tu là, lavorando stai oppure sei fermo per il corona? Io lo c'ho, io fermo, mi gioco fermo qua sempre, 2 anni e 5 mesi che ho finito di lavorare. Ah, parrogero, non lo sapevo, non lo sapevo, bella, bene fatta allora. No, basta, ho già fatto io lo c'ho, ho già fatto, già va bene così, adesso stiamo facendo altro, non è che mi sto grattando, sto facendo altro, dai. Però basta sta andando e tornando a destra, a sinistra, a metà, a metà, Lucia. Ehi, giustamente, sì, giustamente. Beh, qualche altra cosa bisogna farle, in modo di... Se no poi si arrugginisce tutto. Vittorio, non l'hai più visto? Sì, Vittorio, prima ci scendevo giù a Palmato, adesso a Palmato, alla corte, vabbè, dove abita lui. Però... adesso no, adesso siamo da un po' che non ci vediamo, ci sentiamo ogni tanto, la mia nipote, però ci organizzeremo adesso a tempo buono, dai. E cosa vuoi fare? Sta tagliato anche a tutti chi sta goccia, Lucia. Positivo. Aguantiamo un altro poco, vediamo un po' cosa succede, poi ci riabbracceremo, come si dice. E io ogni tanto già lo vedo, Vittorio, dai, lui già è sempre in casa. Kappa, Luciano, dai, va bene, faccio girare avanti Natalino, senti a Luciano Catramino? Sì, che lo sento. Ciao Luciano. Ehi a Natalino, buongiorno anche a te, dai, vi lascio in continuazione, dai, tanto io esco fuori da questo casino qua, casomai a più tardi. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao Luciano, a dopo. Quando siamo a Coso, prova a chiamare a vedere se ti sento lì nel cantiere di Uschi. Qualcuno già arrivava. Ci proverò. Kappa, dai, vai Giulio. Ok, ciao Lucia, buon lavoro. A presto a risentirci, ciao, vai Natali. Ciao Lucia, buon tutto, alle prossime. E a più tardi. La vita del lavoratore è dura, Claudio, purtroppo è così, però è una cosa che bisogna fare nella vita, perché sennò come si fa a vivere? Ci mancherebbe altro. Soprattutto quando uno ha famiglia, se non lavori non canti messa, ui. Vabbè, comunque ognuno di noi fa la sua parte, fa quello che si può e dunque va bene così. Avanti Cla. Lo so, ma noi puoi stare fusato a casa a grattarti io Giulio, dobbiamo fare qualcosa sempre. perché sennò è un casino, capito? È un casino. Vabbè, cosa vi dico? Io poi sono abituato a lavorare da ragazzino, a me stare a casa, a baidarmi di muri non mi piace. E quindi niente, io anche se sono qua adesso però sono praticamente a lavoro. Purtroppo è così, e anch'io ancora oggi, nonostante che sono fuori dal lavoro già roba di 3 anni più o meno, all'incirca una cosa del genere, 2,5-3 anni, e devo dire che ancora sento la mancanza, soprattutto in questo periodo, almeno prima se non altro, prima di questo virus, tutte le mattine salivo lì, anche se non facevo niente, non me ne fregava nulla, aprivo la serranda, mi infilavo dentro il locale, guardavo, magari spostavo, che so io, tanto per fare un esempio, una macchinetta la spostavo da un posto all'altro, tu mi dai, ma cosa andava a fare? Non lo so, era una malattia, era ed è per me una malattia, essendo stato abituato al lavoro per tantissimi anni, ancora oggi devo dire che mi manca la falegnameria, infatti sto sempre in giro, mi anche poco fa stavo parlando con mia figlia, adesso ero al computer, adesso è il computer, adesso è un po' dall'altra parte, e se puoi stare lì, vabbè, già finirà questa situazione, ma speriamo che finisca in fretta, perché se no qua ti viene la repressione, ti viene la carità, non è possibile. Vai Natalini. Lo so, è brutto, non passa mai il tempo quando non... Tu pensa che in questi giorni, Natalia, ho ingrassato 3,5 kg, in questi giorni che sempre stando a casa così, sembra così, ma il stare in movimento, non è a dire che io sto sempre mangiando, no, mangio 3 volte al giorno e basta, e mangio normale come mangiavo prima, però il fatto di non riuscire nemmeno, non bruci nemmeno un grammo di calorie, ed ecco che poi ti si accumula addosso. Tant'è vero, prima ne pesavo 80, giusti giusti, adesso ne peso 83,5, completamente nudo, diciamo. Per cui, per dirti, no, anche quello vuol dire, poi deve incominciare anche da capo per cercare di scendere quei chili che sono messi così, diciamo, senza fare nessuno sforzo. No, non è possibile, ma non è possibile. Vabbè, comunque, passa la pulita. Vai, Cla. Tu immaginati che io quando ho smesso di lavorare ero 89. Sto guardando all'impicco, capito? Adesso sai quanto peso meno di te, nonostante sia 2 mesi a casa, bloccati. Peso 82 kg, 82 kg, capito? Sono sceso 7 kg buoni buoni, 7 kg e mezzo, quasi 8, perché stavo toccando i 90. E sto, ti dico da Dio, Giulio, da Dio, sto bene, mi muovo meglio e tutto. Sto mangiando regolare quello che devo mangiare e mi sto muovendo, capito? E mi sto muovendo. La cosa che mi blocca un po' è le uscite col cane, che sono molto ristrette, perché se il mio fosse un cane veramente da passeggio, allora sei uscito a camminare, a fare. Ma è un cane che ti fa stancare, ti mira, sai, sempre rompendo l'anima, capito? È quello lì che mi manca, se no guai. E Matteo, a scenderne di peso ti fa bene, Cla, anche per la schiena, ma più leggero sì, meglio è. Per quello sono sceso anche, Natalino, per quello, sempre mal di schiena ero. Sempre mal di schiena, non riuscivo a fare niente, cioè se dovevo fare qualcosa, dopo un po' mi dovevo fermare, capito? Invece così sto molto meglio. Peso 82 kg, 82, voglio arrivare a 80, voglio arrivare a 80 secchi secchi, perché il mio peso è 80 kg, e rimanerci però, rimanerci. E il difficile è quello, rimanerci. E poi quanto sei alto tu per l'esattezza? Sono 1,70. E allora il peso forma non è 80, 70 kg è. Però un cavolo ci riesce ad arrivare a 70 kg. Allora si brinchi. No, 70 kg mi vanno lo fumo. E ho arrivato quando ero a Pascoli a 78, 77, cazzo, sembrava malato Natalino. No, no, no, non ce la faccio a scendere così. Guarda, 80 kg, anche se non è il peso forma, però 80 kg io sto benissimo. Non devo superare i 79, 80 kg. Ma scendere di più no, perché mi va la rovumo, capito? L'ossatura è quella, no, non ce la faccio. Vai giù. Sì, infatti, ma anche a me, se per quello mi frega l'ossatura, che ho le ossa abbastanza grosse, ecco, c'è anche quello, il peso mio non è che sono eccessivamente grasso. Sì, diciamo che adesso ho qualche chilo in più, ce l'ho rispetto a prima, ma purtroppo è così, io sono di costituzione ossea abbastanza robusta, per cui non è quello il discorso. Non è perché mangio come un dannato, no, assolutamente, mangio normalissimo come mangiano tutte le persone normali, faccio colazione la mattina, poi pranzo e cena, basta, non faccio altro. La mattina però prima uscivo, facevo quattro passi, incontravo gli amici, andavo, prendevo un cappuccino al bar, insomma si camminava, qualche po' di calorie le bruciavi, ma adesso non muovendomi per niente, se ti sposti da un divano alla poltrona, dal poltrona al divano, dal divano al letto, non lo so io che cosa consumi di calorie, niente, è chiaro che tutto si accumula addosso come peso, purtroppo succede questo, speriamo che finisca presto, così almeno usciamo tutti quanti e ci facciamo la solita passeggiata giornaliera. Vai Natali. Infatti, a sapemo che ti vado a ingrassare, non consumi le calorie e sei fregato lì. Giulio, a camminare puoi andare, puoi uscire tranquillamente, puoi andare dove ti piace. Chiaramente devi uscire con la mascherina se vai in posti dove c'è altra gente, se no senza mascherina, passeggiando per i fatti tuoi, tenendo le distanze di sicurezza. Si può uscire adesso, anzi, è un buono che ci hanno un po' dato spazio, se no guai. Sì, quello sì, oggi sì, si può fare anche quello. Infatti ho dopo intenzione di andare lì al tabacchino intanto per rinnovarmi la scheda telefonica, primo. E poi anche perché magari mi avvicino anche all'edicola, compro un Corriere dello Sport oppure Tutto Sport, e così passiamo il tempo anche leggendo qualche articolo. E tutte queste cose adesso si incomincia a fare. E tu pensa che non sono andato nemmeno a prendermi la pensione questo mese. Adesso ci andrò a fine mese e prenderò due mesi in un unico colpo, perché se li lascio anche il prossimo mese poi la rimandano indietro all'INPS e da voi è un casino per poter riavere la pensione, devi andare, fare passeggiate eccetera, invece ci vado quando tocca la mia lettera è S e dunque è l'ultimo giorno sarebbe il 30 di maggio e pagano aprile, cioè pagano maggio e giugno pagano, perché io non ho mai fatto, forse è stata una sbirata, non ho mai fatto il banco posta, non ho fatto mai niente, perché me ne sono sempre presi i soldi, poi da lì andavo sempre con la scusa che avevo il tempo per camminare eccetera, da lì prendevo i soldi e me li portavo alla Banca Nazionale, mi tenevo in tasca quello che mi serviva per un certo periodo e poi me li versavo alla Banca Nazionale, come ho sempre fatto e come continuerò a farlo appena possibile, tutto lì o qua. Ma scusa, non hai mai pensato a farti fare l'accredito in banca diretto, come ci abbiamo tutti? Devi stare nel torrente e fende, no? Io non ci vado mai alle poste. E chi ci è mai andato? Ma io vado solo, anzi neanche ci vado più, perché vado alla Sisal a pagare la luce, le bollette, insomma quelle che conti correnti non ne ho, a meno che non ne arrivi qualche uno. Anzi avevo quello di Sky che adesso non ce l'ho più. Perché intanto sport non ce n'è, cosa paghi a fare? E quello lo pagavo lo stesso alla Sisal. Prima invece si andava alle poste, no? Io alle poste vado lì, quando devo fare i conti correnti della radio, perché non lo puoi fare la Sisa, capito, che non c'è la cosa elettronica, e basta, quei conti correnti normali da 12 e da 5, se no gli altri io li pago tutti al tabacchino o all'edicola, però la pensione è in banca, quella te la creditano in banca, non bisogna diventare i buchi. Lo so qua, lo so benissimo quello, se per quello potrei farlo anche come bancoposta e poi lo potrei prendere dal distributore anche vicino a casa, per dire. Ma no, l'ho fatto apposta, proprio così, è una scusa per muovermi, capito cosa intendo? Intanto dice, il tempo ce l'ho, tutti i giorni esco tutte le mattine, sicché cosa faccio? Dopo che ho preso il cappuccino posso farmi la scappatina, quando è il momento vado alle poste del ritiro e poi è il modo come un altro per passare il tempo, in poche parole. Però in questo periodo è un po' più complicato perché adesso deve andare, si deve mettere in fila, a distanza, sai come rispettare il giorno che ti tocca con l'alfabeto o... no, non è insomma.